già arrivato e noi stiamo tutte quante qui a lottà. Qui alla radio onda rossa e il microfono sta aperto per parlà. Questo è il giorno in cui la radio è tutta quanta solo per l'MFLA. Noi facciamo la maratona radiofonica per Roma e per tutte le città. 8 marzo delle femministe, 8 marzo dell'MFLA, 8 marzo della maratona, 8 marzo radiofonica. Sia che piove o che c'è il sole, a casa non ce voglio sta. Me stanno a bruciare i piedi per la voglia di marcia. Dentro al cuore e nella mente ci risuona la parola libertà. Che se donne la conquista, riscendemo insieme in piazza e chi ci ferma più.